che dopo il periodo estivo che ha visto il nostro silenzio, riprendiamo con una nuova stagione di Indie Radio. Ormai dopo, vabbè, il primo momento sperimentale, siamo in realtà giunti alla seconda stagione di questo programma. Un programma che, vi ricordo, è gestito dal collettivo di Calabria Indie Media, un programma questo che potete ascoltare solo ed unicamente su Radio Transizione di Fase ogni venerdì alle ore 21. Certamente in questa stagione estiva ci sono stati numerosi avvenimenti e numerosi accadimenti. Noi non certamente tenteremo di fare un sunto, diciamo così, della situazione, però vogliamo ricordarvi che alcune cose sono accadute e ci avviamo oggi a raccontarvi tante questioni, tante storie che leggiamo soprattutto sul sito di Calabria Indie Media. E a questo proposito vogliamo ricordarvi che è tutta Indie Media Italia, e quindi vari nodi locali, ma anche Italy Indie Media, sono alla ricerca di fondi. Ebbene sì, anche Indie Media Italia ha necessità di denari, quindi abbiamo un debito in realtà abbastanza spaventoso, lo diciamo, che vede qua più di 1.500 euro da attribuire a chi ci ospita per quanto riguarda i server. Di conseguenza lanciamo un accorato appello, è il caso di dirlo, a tutti voi che ci ascoltate, e quindi se volete fare delle donazioni contattate il nostro sito, contattate Indie Media Calabria attraverso la nostra mail list, oppure se vi rende più facile e comodo contattate anche Transizione di Fase, che certamente non tarderà a reindirizzarvi a noi, cioè a Calabria Indie Media. E dopo questa introduzione, diciamo, poco felice, ci avviamo a parlare di quello che, di quelle che sono le nuove notizie, diciamo, nuove notizie sempre un ossimoro quasi. Parliamo però di quello che accade a Cosenza come prima notizia. Infatti a Cosenza negli scorsi giorni è stato contestato delle chiaie che veniva nella città a presentare un suo libro, L'Aquila e il Condor. La stessa sorte, la stessa matrice, diciamo, di contestazione si è registrata anche a Catanzaro alla Mezzia, dove appunto il delle chiaie ha presentato ugualmente il suo libro. Un'altra notizia è comunque quella relativa ad una iniziativa svolta al CPU Arialdo di Cosenza, con un incontro al quale sono stati invitati dei lavoratori dell'Ilva di Taranto, nonché alcuni lavoratori della Marlane di Praia. Quindi ascolteremo uno stralcio di un intervento. Ci auguriamo che a breve possiate ascoltare su Transizione di Fase l'intero accadimento. Come altra notizia, invece, la terza notizia della giornata di questa prima puntata della seconda stagione di Indie Media di Indie Radio, ricordiamo quello che succede nelle scuole, infatti dai tagli alla soppressione delle libertà e alle truffe, e nell'aria si sente un profumo di merda. Ebbene sì, racconteremo quelle che sono le vicende della scuola, dalle lotte studentesche ai tagli che, come ogni anno, si fanno sempre più forti e quindi repressivi. E come ultima notizia, invece, parleremo di quello che succede a Cosenza, dove ci sono dei lavoratori che sono sfruttati e licenziati, pensate un po', dalla CGIL, sì, proprio quel sindacato che dovrebbe tutelare i lavoratori, li sfrutta, quindi i nostri più vivi complimenti a questa associazione, diciamo, di lavoratori, è il caso di dirlo. Bene, dopo i primi scleri della giornata cerchiamo di mantenere comunque salda il nostro proposito, cioè quello di realizzare, per quanto ci è possibile, un programma serio, preciso e puntuale. Speriamo che non ci siano i soliti problemi tecnici ad attanagliarci, quindi io direi di dare spazio un po' alla musica e riprendere a breve con le notizie. Yeah. Dunque parlavamo di Cosenza che odia il fascismo. Ebbene, il 27 settembre scorso, leggiamo dal sito di Calabria Indie Media, e più precisamente si tratta di un articolo centrale, a Cosenza dunque Stefano Delle Chiaie, nella sede del CONI di Piazza Matteotti, ha presentato il suo ultimo libro, alla presenza anche di un ex compagno sedicente post-punk, Pari delle Polace. L'antifascismo si è quindi dato appuntamento alla sede CONI già dalle ore 12. Una lunga giornata di presidio che era stato ampiamente annunciato dalle forze antifasciste cosentine, durante il quale le forze dell'ordine hanno caricato per ben tre volte i manifestanti, che avevano invece le mani alzate e intendevano testimoniare che l'antifascismo è ben vivo a Cosenza, malgrado qualche delazione che si spiega solo con le devianze mentali. Violenza gratuita questa non generata da alcun cenno violento dei manifestanti. Le cariche hanno causato diversi feriti, uno di questi è finito in ospedale, colpito alla testa. Gli è stata praticata una bendatura all'occhio. Le forze dell'ordine, con la consueta spavalderia mista ad ignoranza, hanno addirittura avuto il coraggio di dichiarare alla stampa che il ferito perdeva semplicemente sangue dal naso. Una bugia grande come una casa che i referti medici, i video girati, smentiscono e smentiranno. La città nel frattempo risultava bloccata. Strade chiuse, traffico paralizzato, tutto per proteggere un fascista, un sostenitore ed ammiratore delle dittature sanguinarie d'America Latina. Tutto per permettere che una inutile presentazione di un becero libro, voluto soprattutto come provocazione, avesse luogo. In definitiva, le lecchiaie e le 15 persone che lo ascoltavano, età media 70 anni, assieme al venduto pari delle Polacee e ai tanti simpatici personaggi come Mimmo Barile, hanno ottenuto la loro inutile presentazione, protetti dalla polizia, mentre 200 persone, giovani e meno giovani, gente comune, militanti, hanno espresso il loro parere e hanno contrapposto ai manganelli la forza delle idee. A fine serata, un corteo per le strade cittadine per ribadire ancora la forza delle idee e la determinazione della libertà. La presenza di delle chiaie, prima a Catanzaro, dove è stato anche contestato, poi a Cosenza, rappresenta nemmeno né più nemmeno di un tentativo di effettuare una revisione storica, ma è anche chiaro il monito politico di chi tenta di risalire la china in Calabria, ritenendo giunta al capolinea la sua esperienza con il PDL. Cerca ora di far avanzare la destra estrema. Chi presta il fianco a questi tentativi? Chi si lascia strumentalizzare? Chi rimane nel silenzio o nell'indifferenza è complice e partecipe dello scempio. Cosenza è e rimane una città antifascista. Gli sparuti gruppi destroiti si rassegnino, non c'è speranza per i topi nella città Bruzia. Ricordiamo poi che anche a Lamezia delle Chiaie è stato contestato con un sit-in organizzato dai lametini. Passiamo ora alla seconda notizia del giorno. Dunque parliamo di questa iniziativa a rialzo con i lavoratori dell'Ilva di Taranto e della Marlane di Praia. Una bella iniziativa senza dubbio che dimostra come sia necessario abbandonare l'idea della delega e della rappresentazione, della rappresentanza. Dunque sabato scorso, il 6 ottobre per la precisione, al rialzo di Cosenza si è parlato di una lettura del reale, dei bisogni odierni, lontani anni luce rispetto ai bignami della politica novecentesca. I compagni di Taranto ci hanno fatto capire tante cose e non perché hanno tenuto un discorso sui massimi sistemi, ma hanno invece dimostrato che risposta dare a un dato di fatto. Una città distrutta da un sistema che, mentre parla di lavoro, assicura morte, distruzione, inquinamenti. La risposta è auto-organizzarsi. Questo è quello che dobbiamo fare anche noi, ma non perché amiamo ripetere formule create altrove e ora qui calate dall'alto. Quello che dobbiamo fare è auto-organizzarci per affrontare necessità e bisogni della nostra terra. Il nostro fine non dovrà essere il potere, non dovrà essere l'egemonia, ma il miglioramento degli uomini e delle donne, tra gli uomini e le donne. Questa dunque la lezione che si ricava da questa iniziativa di Taranto, del rialzo, scusate. Ma ora ascoltiamo uno stralcio di questa registrazione. Questo intervento fa parte del dibattito, cioè nel senso, prendetelo come un intervento di un compagno che sta qua con tutti gli altri compagni a ragionare sulla questione Taranto e soprattutto la questione della rappresentanza. Io partirei dal fatto che, scusatemi se dovrò ripetere qualcosa che è stata già detta, però purtroppo farei fatica a tenere il filo del ragionamento altrimenti, e non sono capace di saltare le parti che sono state già dette purtroppo. Partirei dal fatto che lui attualmente produce, cioè l'Ilva in questo momento, nonostante la magistratura abbia posto i sigilli e da più parti sia arrivata la voce che assolutamente bisogna sequestrare questi impianti che sono stati messi all'interno della sentenza del coso di sequestro, lui continua a produrre. Questo pone un problema serio per quanto riguarda noi come cittadini di Taranto, perché la magistratura è diventata in qualche modo un simbolo a cui le persone si sono affidate, soltanto che il processo attualmente è ancora al CUP, per cui sicuramente non sarà il processo a smuovere la questione dell'Ilva. Quello che dicevamo prima sull'AIA è che fondamentalmente, per come vediamo noi la situazione e tutto quello che le inchieste hanno dimostrato, che sta uscendo fuori dalle intercettazioni telefoniche, il fatto che lui abbia investito dei soldi in Alitalia dicendo che l'investimento non sarebbe mai stato redditizio, ci porta a pensare che effettivamente questo governo non ha nessuna intenzione di affrontare il problema Ilva. Vuole soltanto cercare di portare avanti la questione fino a quando può tirarla avanti, probabilmente sperando che poi sia un altro governo a occuparsi della questione reale. Quello che sembra a noi è che lui voglia andare via da Taranto prima che arrivi il picco dei tumori, che ancora non è arrivato, perché quando nel 95 lui prende lo stabilimento, oltre a dimezzare il personale, raddoppia la produzione, per cui il picco dei tumori è aspettato dal 2015 al 2018. Il fatto che Riva non abbia più interessi a rimanere nella città di Taranto, per quanto ci riguarda, è dimostrato dal fatto che lui sta continuando a produrre, cioè ci sembra evidente che stia cercando di guadagnare il più possibile da quello che gli rimane di questo stabilimento, perché probabilmente l'introito che lui tirerebbe fuori dalla vendita del 40% dell'acciaio italiano non ripagherebbe l'investimento che lui dovrebbe fare per cercare di sistemare l'impianto. Per quanto ci riguarda, la logica di rottura che stiamo cercando di costruire in città è sicuramente innanzitutto nel cercare di invertire quel paradigma che appunto dicevamo prima, che vede il padrone succhiare sempre soldi dallo Stato per cercare di tirare avanti quanto più possibile la baracca e poi andarsene fottendosene completamente di chi sta là o di chi l'ha aiutato. Invertire questo paradigma, per quanto ci riguarda, significa sicuramente riuscire a costruire una città che sia in grado non solo di controllare il territorio, ma anche di gestirlo. Per cui quello che in questo momento più ci preme approfondire è proprio la possibilità di costruire altre forme, altri tipi di democrazia, cioè riuscire a costruire in piazza, perché in questo momento la città ce lo chiede in qualche modo, in maniera più o meno cosciente, però le assemblee che stiamo facendo, le assemblee pubbliche che facciamo, comunque a un certo punto tendono a cercare di capire come fare a imporre ciò che la cittadinanza vuole alle amministrazioni che in teoria dovrebbero rappresentarla. Soltanto che per poter affrontare quella cornice di cui parlavo prima, dei miliardi che comunque lui ha investito nella corruzione totale di tutto nella costruzione vera e propria del sistema Ilva, che in qualche modo è rappresentato dall'Ilva ma che si vede un po' in tutta Italia e anche a Taranto, anche in altri impianti, è reale proprio. Cercare di affrontare un sistema costruito in questa maniera sicuramente significa riuscire a costruire una popolazione belligerante in qualche modo, che pretenda che venga rispettata la sua opinione. Però per costruire una popolazione belligerante, secondo noi, è assolutamente necessario che le proposte di alternativa, che poi andranno concretizzate assolutamente sul territorio, e per concretizzarle sul territorio, proprio perché alternative hanno bisogno della forza della cittadinanza, devono essere non semplicemente recepite dalla cittadinanza, devono essere proposte dalla cittadinanza, devono sentirle proprie, altrimenti non le difendono. Cioè, o riusciamo a costruire un modello che effettivamente fa partecipare tutti, e in questo il simbolo della Pecar era proprio, cioè, è proprio emblematico, la possibilità di coinvolgere una larghissima fetta della popolazione che riprende in mano le sorti del suo destino e affronta la questione del reddito, della salute, dell'ambiente e del lavoro in maniera cosciente e autodeterminata. Però ovviamente siamo sicuramente in mezzo a tutte le speculazioni politiche del caso, perché chiunque abbia fatto politica in quella città, ma in questa nazione in generale, sta cercando di riciclarsi comunque nei movimenti per cercare di riacquisire una faccia pulita che possa permettergli di superare l'impasse del secondo ipotetico governo tecnico. E in tutto questo, come storicamente è successo, il movimento torna indietro, nel senso che ogni volta che la sinistra istituzionale ha preso poi in qualche modo in mano le redini del movimento, è riuscita comunque a speculare sul movimento, ha creato comunque il riflusso e un annullamento, non dico istantaneo, ma abbastanza evidente e progressivo nel tempo, annullando di fatto le esigenze e le istanze che le piazze portavano. Per cui per quanto ci riguarda, riuscire a superare questi, queste barriere che comunque sono presenti nel contesto territoriale di tutta la nazione, non soltanto tarantina, sicuramente passa dalla possibilità di intercettare le basi della rappresentanza istituzionale in generale, perché come diceva prima Peppe, cioè, se noi ci fossimo trovati a lavorare 5 anni fa su questa questione, noi avremmo trovato tutti gli operai che sono adesso al nostro fianco all'interno della FIOM, e sono persone che mettono a disposizione se stessi esattamente come noi per cercare di migliorare, ma non migliorare, semplicemente migliorare in maniera assistenzialistica, proprio di riprendersi in mano le sorti del territorio e cercare di costruire un futuro che sia effettivamente alla portata di tutti, perché è voluto da tutti e non semplicemente da qualcuno che te lo dà dall'alto e te lo promette come chissà cosa. Per cui sicuramente ci poniamo l'esigenza di intercettare anche la base della FIOM, al di là della concezione che ognuno di noi può avere della FIOM, se nasce o non nasce, nell'idea di prendere la parte più vera e più viva della lotta e cercare di assorbirla, al di là di questo, cioè c'è sicuramente una serie di persone all'interno di varie strutture, non soltanto della FIOM, che noi abbiamo comunque bisogno di intercettare, perché non possiamo rischiare che, come storicamente è accaduto, poi le lotte finiscano in una bolla di sapone e si perdano nel riflusso, perché poi è questo quello che abbiamo vissuto nelle fasi di ciclicità, comunque anche delle lotte e dei movimenti. Cercare di superare quella che poi diventa in qualche modo o in maniera volontaria o anche involontaria autoreferenzialità all'interno dei movimenti trasversali, significa sicuramente interrogarsi su altri tipi di rappresentanza. Però cioè, noi come tarantini in questo momento che abbiamo l'esigenza e la necessità di tornare in piazza e di costruire con la piazza le alternative reali al territorio, perché appunto, cioè, noi effettivamente con le inchieste che sono uscite sicuramente non possiamo affidare il nostro futuro a alternative istituzionali, cioè nel momento in cui ti rendi conto che dall'ASL all'ARPA a tutti i tipi di istituzione sono tutti quanti stati pagati nel tempo per falsificare i dati e cercare di rendere più pulita questa azienda da un punto di vista puramente di immagine, e ti pone l'esigenza di riprenderti in mano in qualche modo le proposte quantomeno per la città, non dico la città, perché non è che stiamo dicendo che siamo pronti a fare chissà quale passo, proprio perché non abbiamo ancora non abbiamo ancora capito come riuscire a costruire un organismo che sia un organismo popolare veramente trasversale, completamente orizzontale, che sia in grado effettivamente di far decidere tutti nella stessa maniera e che sia in grado di superare le speculazioni attraverso l'intelligenza collettiva, perché poi è vero che comunque sia le competenze e le conoscenze per cercare di smascherare possibili speculazioni, nel tempo ce le siamo costruite, perché le abbiamo vissute come movimento, nella storia del movimento, e più o meno abbiamo provato a costruirci gli anticorpi per cercare di riconoscere le speculazioni e denunciarle abbastanza velocemente. L'importante è riuscire a fare in modo che questo meccanismo diventi quanto più collettivo possibile, per cui sicuramente non ci si interroga soltanto sul come fare le assemblee in qualche modo, ma anche come costruire e sedimentare nel tempo una diversa forma di partecipazione attiva e di costruzione di alterità e di contropotere, perché come dicevi tu, se riuscissimo veramente a riappropriarci del lavoro, costruendo e inventando forme differenti di lavoro, potremmo produrre reddito e cercare di produrre anche contropotere sul territorio, cioè cercare di creare un altro tipo di mentalità che veda il lavoro non al servizio dello stipendio, ma che veda il lavoro al servizio del benessere vero e proprio del territorio stesso. E però appunto, cioè, dare forza a un tipo di percorso di questo genere sicuramente richiede un'analisi profonda della democrazia partecipata per come la intendiamo, cioè della possibilità appunto di coinvolgere larghe fette della popolazione. Noi ci dividiamo in gruppi di lavoro per cercare di parlare delle proposte della città, però, cioè, anche su quello facciamo fatica, dovremmo dividerci per categorie. Se ci dividiamo per categorie alimentiamo l'automatizzazione che si sta creando già a livello capitalistico all'interno della società. Come dovremmo fare? Cioè, tutti questi interrogativi noi abbiamo necessità di di raccontarle a voi, di confrontarci con gli altri compagni che sono presenti sul territorio, perché la crisi della rappresentanza, boh, secondo noi un po' ce lo impone, anche forse il fallimento dei social forum un po' ci impone di cercare di superare alcuni limiti che purtroppo si sono manifestati. Scusate se non. Basta. Giungiamo ora al terzo argomento della giornata. I tagli alla soppressione per alle truffe e nell'aria si sente un profumo di merda. Leggiamo dunque questa notizia comparsa su Calabria Indie Media, che parla di una manifestazione nazionale dei precari uniti contro i tagli. La scuola che resiste è nelle piazze. La scuola che resiste si è data appuntamento lo scorso 22 settembre a Roma in occasione della manifestazione indetta dai precari uniti contro i tagli. Questo momento di piazza, fortemente voluto dal basso, ha ribadito con chiarezza e determinazione il no al concorso, finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di un numero irrisorio di docenti. Questo concorso, ufficializzato dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 25 settembre, è stato delineato dal ministro Profumo, spalleggiato dalle attuali forze di questo sedicente governo tecnico. Ad una prima e superficiale lettura si potrebbe dunque leggere l'emanazione del bando successiva alla manifestazione come una sconfitta del movimento dei precari della scuola. In realtà questo non corrisponde al vero. In primo luogo, quello che ha spinto i precari a scendere per le strade di Roma non è stata la semplice, seppur legittima, difesa del proprio posto di lavoro. Quello che i precari della scuola oggi in Italia tentano di difendere è il concetto stesso di scuola pubblica, libera, garantita a tutti e tutte, scevra da ogni ingerenza di stampo privato e aziendale. I precari della scuola sono in stato di mobilitazione per contestare l'intera politica nel campo dell'istruzione perseguita oggi dal ministro Profumo e sostenitori, ieri dalla Gelmini, benché i podromi di questa tendenza si annidino in un passato ancora più lontano. Quello che incombe sulla testa degli studenti e dei lavoratori della scuola, infatti, non solo è semplicemente il concorso, ma soprattutto il disegno di legge Aprea, che, accettato in toto, cambierebbe radicalmente il volto dell'istruzione pubblica italiana, poiché andrebbe a sancire la morte delle scuole in favore di semplici aziende dove non si garantisce alcun diritto all'istruzione, ma si limita ad erogare servizi all'utenza. La qualità dell'istruzione, ed è sotto gli occhi di tutti, continua la sua discesa verso gli inferi. Le forze di governo, con sempre maggior disinvoltura, parlano di percorsi di pericolosi provvedimenti, uno fra tutti la riconversione dei docenti in esubero. In definitiva, le università, che quindi si vedrebbero ritornare indietro un po' di denari sottratti con l'abolizione delle SIS e probabilmente non del tutto bilanciati dalla realizzazione dei TFA, allestirebbero delle oggi corsi di aggiornamento per i docenti perdenti posto, perché quindi sarebbero riconvertiti all'insegnamento di sostegno. Quale tipo di qualità e soprattutto che diritto all'integrazione verrà in questo modo garantita? Si fanno passare docenti da un ambito all'altro senza che ne abbiano vocazione, ma semplicemente spinti dal contingente. Nel contempo si parla ancora di meritocrazia e di scelte dei migliori docenti possibili per la scuola italiana. D'altra parte, ormai, chi vive la scuola è tristemente abituato ad ascoltare le peggiori bufale e le più banali indecenze. Ritornando al famoso concorsone, le cui modalità sarebbero tutte da discutere, prima dell'emanazione del bando, sia il ministro che i suoi fedeli seguaci, uno fra tutti il sottosegretario Rossi Doria, ex maestro di strada di area PD, indicavano in questo strumento selettivo la strada maestra per scegliere i migliori docenti che, nella loro distorta visione delle cose, corrispondono ai giovani neolaureati. Ebbene, il concorso è chiaramente precluso ai giovani, infatti potrà parteciparvi solo chi è laureato molti anni fa o che in ogni caso è in possesso di abilitazione. In definitiva si andranno a valutare ancora una volta coloro i quali hanno già superato numerosi esami e prove concorsuali. Innanzi a un simile paesaggio i precari annunciano già ricorsi. Troppe stranezze in questo bando, troppe irregolarità. Certamente le aule dei tribunali avranno molto su cui lavorare nel prossimo futuro. A questo punto tutte le strade saranno perseguite per bloccare questo scempio totale. A ogni modo, non è nei tribunali che si ottengono reali e concrete vittorie. Sono solo le piazze, solo il lavoro continuo e costante possono portare a risultati tangibili e reali. Ritornando alla manifestazione di Roma, si può tranquillamente affermare che si è trattato di un successo. La vittoria è stata in primo luogo rappresentata dalla funzionalità dell'auto-organizzazione. Malgrado il mainstream abbia deliberatamente oscurato le varie iniziative locali dei precari, non abbia fatto cenno, se non con qualche piccola eccezione, all'Assemblea nazionale dello scorso 9 settembre e la conseguente manifestazione nazionale, la comunicazione autonoma ed indipendente ha funto da egregio tam-tam. Questo prova ancora una volta la potenza, talvolta sottovalutata, dell'informazione fatta da chi vive le strade e le lotte, e non da penne prezzolate al soldo del sistema. La piazza del 22 ha di fatto sancito questo principio. I precari della scuola, gli studenti, presenti in piazza fra l'altro, sono ormai stanchi di delegare, vivono nella totale sfiducia rispetto alle forze sindacali confederate soprattutto. La stragrande maggioranza del corteo era composta da comitati locali, spontanei, dei precari, alcuni organizzatissimi e forti come Napoli o Roma, altri coraggiosi come Milano, fuggiti a un pericoloso incendio in galleria e comunque giunti in piazza a Roma, sporchi di fumo e odoranti di catrame. Tuttavia presenti. Altri che hanno risposto all'appello con piccole rappresentanze come Cosenza, giunti a Roma grazie anche al sostegno economico non più di sindacati, che in molti casi hanno nei fatti negato sostegno organizzativo, ma dei comitati auto-organizzati, dei precari. La piazza dell'auto-organizzazione ha quindi funzionato. Viva, pertanto, la soddisfazione degli organizzatori, ossia di coloro che, riconosciutisi all'interno del Precari Uniti contro i tagli, si sono spesi in prima persona per la riuscita della protesta. Le forze partitiche presenti in piazza erano del tutto risibili, è stata già evidenziata l'ostilità dei grandi partiti di governo. Mentre, per quanto riguarda i sindacati, qui occorre ripercorrere alcune tappe salienti. A dare la solidarietà e il supporto concreto e tangibile ai precari uniti contro i tagli sono state associazioni sigle dei sindacati di base, USI, COBAS, USB, mentre la CGIL, in un primo tempo, ha osservato un silenzio da tatticisti politici quali sono. Innanzi ad alcune prime dichiarazioni di questo sindacato circa il concorso che facevano traperare una certa simpatia verso il provvedimento, pareva che la CGIL fosse favorevole in primo tempo. Poi è stato corretto il tiro, sostenendo un sì ai concorsi, ma dopo la stabilizzazione dei precari esistenti, fino a giungere all'adesione alla manifestazione del 22. Effettivamente, quello che i precari chiedevano e chiedono è un no, senza se e senza ma, al concorso. La CGIL, forse anche impressionata dalla proposta che da più parti veniva, ossia bruciare in piazza le tessere della CGIL, ha poi aderito alla manifestazione, ma occorre dirlo, il supporto alla stessa non è sempre stato omogeneo su tutto il territorio nazionale. In merito a CISL e UIL non sarebbe nemmeno il caso di sprecare inchiostro, ma per onorare la verità, i due sindacati sono favorevoli in toto alle iniziative di questo governo, quindi nessuno si aspettava da loro la benché minima risposta. Insomma, i sindacati prettamente padronali non hanno perso occasione di mostrare al mondo la loro reale natura. Con la giornata del 22, per come è stato detto in piazza, è stata fatta sentire la voce dei precari, la loro determinazione, e si è dimostrata la loro capacità di organizzazione. Ritornati a casa, i precari non sono e non rimarranno di certo con le mani in mano a sperare magari in qualche supplenza, qualche spezzone. La mobilitazione continua e registra ancora successi. Il ministro Profumo ormai sa di non potersi più mostrare in pubblico. Ovunque vada, un gruppo di precari auto-organizzati si materializza, pone delle domande, espone ragioni. Di contro, il ministro rimane letteralmente a bocca aperta, privo di convincenti argomentazioni e valide risposte. Negli scorsi giorni era quindi prevista la sua presenza a Milano e a Catanzaro. In entrambi i casi erano annunciati sit-in e momenti di mobilitazione. Risultato: il ministro era assente all'appello. Ovviamente la lotta continua, va avanti e si evolve. Il nemico è difficile da battere, attaccato all'idea di dover privatizzare la scuola pubblica italiana, di renderla scadente e al servizio delle aziende e non più degli studenti. Certamente si sentirà ancora parlare dei precari della scuola, che non mancheranno di unire, questo è l'augurio, la lotta a quella degli studenti, a quella dei lavoratori di tutta Italia. Solo l'unione e l'auto-organizzazione possono rappresentare la vera opposizione a questo brutale ed ennesimo attacco neoliberista alla vita di ciascuno di noi. Ma a parte tutto questo, a parte questa lunga descrizione di quello che è stato il giorno del 22 ottobre e le varie analisi che ne conseguono, vediamo invece che cosa è accaduto in una piccola cittadina calabrese, ovvero a Lamezia, una questione che potrebbe apparire di normale amministrazione, ma che ai noi rappresenta il clima di repressione che si vive un po' in tutta Italia. Certamente molti di voi avranno visto immagini, foto, video che ritraggono molti studenti caricati, picchiati e aggrediti violentemente dalle forze dell'ordine durante le manifestazioni del 5 ottobre scorso. Questi sono fatti veramente molto molto gravi, che la dicono lunga su quella che è la visione odierna della piazza da parte delle forze dell'ordine: reprimere e aggredire giovani ragazzi di 15, 16, 17 anni. In Calabria non si sono verificate scene del genere, però vogliamo leggere che cosa è accaduto a Lamezia, dove il preside del Geometra sospende tutti gli studenti che hanno partecipato al corteo. Leggiamo dunque questo post comparso sul Newswire di Calabria, Indimedia. Venerdì 5 ottobre anche a Lamezia si è svolto il primo corteo studentesco autonomo dell'anno nell'ambito della mobilitazione nazionale lanciata da StudOut. Anche gli studenti lametini quindi sono scesi in strada a difesa della scuola pubblica e contro le misure di austerità di questo governo. Evidentemente questo non piace agli amici di Monti e per il secondo anno consecutivo si registra una sospensione arbitraria nei confronti degli studenti dell'Istituto Tecnico per Geometri che hanno partecipato alla manifestazione. Per il preside, il dirigente cioè di questa scuola, più volte candidato nelle file del centrodestra, probabilmente il diritto di manifestare rappresenta una concessione che da buon padrone può essere data solo a proprio piacimento, e guai a non pensarla come lui. Esprimiamo la nostra totale complicità e solidarietà agli studenti e alle studentesse sospesi e ci mettiamo a completa disposizione per qualsiasi iniziativa. E il comunicato è firmato dal collettivo autonomo Altra Lamezia e da studenti medi Lamezia Terme. E dunque vediamo come le forme repressione continuano a colpire e continuano a colpire anche molti lavoratori che addirittura prestano il loro servizio all'interno, pensate un po' voi, della CGIL. Personalmente la cosa non ci sorprende, però è un dato significativo leggere quello che accade a Cosenza, quindi leggiamo questo post ugualmente comparso sul Newswire di Calabria Indimedia. La nota a firma della segreteria della CGIL di Cosenza relativa alla sentenza di condanna emessa dal giudice del lavoro per la violazione dei diritti elementari del lavoro, Paolo Ferraro, perpetrati e reiterati nel lavoro dalla stessa CGIL, Paolo era pagato 250 euro al mese in nero, emessa dal giudice del lavoro, suscita alcune doverose riflessioni, non fosse altro per evitare di continuare a fornire all'opinione pubblica, agli stessi gruppi dirigenti della CGIL, nonché alla grande platea dei lavoratori e dei pensionati, una lettura distorta e ingannevole di quanto, purtroppo, nel corso degli ultimi anni accade all'interno del più grande sindacato italiano. Il gruppo dirigente cosentino della CGIL, sulla falsariga di quanto peraltro già più volte sostenuto dalla CGIL nazionale, riconduce la vicenda Ferraro e la conseguente condanna del giudice del lavoro a semplice caso isolato e a conseguenti responsabilità soggettive. Ancora una volta, perseverando nell'errore politico, si cerca di nascondere la polvere sotto il tappeto e il gruppo dirigente cerca di nascondere la testa sotto la sabbia. Decine di casi come quello di Paolo sono sparsi in tutta Italia. Una miriade di cause si stanno svolgendo nei tribunali, nei casi più gravi, accompagnate persino da inchieste dell'autorità giudiziaria per accertare eventuali responsabilità penali collaterali alle cause di lavoro. Le cause in corso contro la CGIL, che hanno sempre progetti in lavoro nero, lavoro irregolare, mobbing, intermediazione illecita di manodopera, illegittimi licenziamenti, molestie sessuali e molto altro ancora. Tutti questi casi sono stati più volte portati a conoscenza diretta degli organismi di controllo della Confederazione ai più alti livelli e in più di una circostanza perfino all'attenzione della Segreteria Generale della CGIL nazionale, ivi compreso il caso di Paolo Ferraro. Per questa semplice ragione riteniamo legittime alcune domande. Perché, pur sapendo la CGIL nazionale, decide di lavarsene le mani? Perché non vengono preventivamente attivati gli organismi di controllo previsti dallo Statuto Nazionale della CGIL? Perché le commissioni di garanzia non svolgono la loro funzione prima delle sentenze? Perché i gruppi dirigenti a tutti i livelli, a conoscenza di questi casi, non assumono alcuna posizione mantenendo comportamenti omertosi? Perché il divieto nazionale della CGIL non ha mai discusso di queste questioni? Perché si continua imperterriti a negare, a minimizzare, a tacere su quanto sta accadendo in tutta Italia? In questa fase ci si interroga tanto sui media e tra la gente sulla perdita di credibilità della politica delle istituzioni, ma ci chiediamo forse lo stesso sta accadendo all'interno della CGIL e nessuno vuole accorgersene, forse per le stesse ragioni per cui nessuno si accorge degli scandali e delle illegalità che si consumano ormai quasi quotidianamente all'interno di altre forme associate di rappresentanza. Sostenere che la sentenza del giudice del lavoro di Cosenza, come prima la sentenza del reintegro sul posto del lavoro di Ciro Crescentini, illegittimamente licenziato con la conseguente condanna della CGIL, la condanna della CGIL di Ragusa del caso di Domenico Fonte, altri casi precedenti di pronunciamenti dei tribunali della Repubblica di condanna della CGIL e altre sentenze che sono già in fase di definizione rientrerebbero all'interno di una casistica quasi ordinaria di cui sarebbero responsabili solo singoli dirigenti che verranno appositamente sanzionati. Ci lascia inebetiti e sconcertati. Come è evidente, la questione riguarda la CGIL tutta, l'intero gruppo dirigente nazionale, addirittura l'intero movimento sindacale e politico del nostro paese, perché certamente gli iscritti lavoratori e tutti i cittadini che in questa fase di gravissima crisi economica e sociale, di perdita continua di posti di lavoro, di dramma per le condizioni di vita delle persone, non possono certo permettersi il lusso di vedere il più grande sindacato italiano continuare a perdere costantemente credibilità e moralità, cadere nella illegalità latente, reiterata e permanente, con la violazione di elementari diritti, contraddicendo così apertamente principi e valori insiti nella storia centenaria della CGIL e la sua stessa funzione sindacale, ma anche civile, politica e sociale. La firma di questo post è quella di licenziati dalla CGIL. Ebbene, non c'è altro da dire secondo noi se non auto-organizzazione. Ebbene sì, cari signori, cari signori, dobbiamo distruggere, se mai ne avessimo avuto, tutte le varie tessere di partiti, di sindacati, tessere elettorali, qualsiasi cosa, anche le tessere raccogli punti, suggeriamo noi, e bruciarle tutte e cominciare davvero ad auto-organizzarci dal basso. Non attendiamo più deleghe, non attendiamo più che qualcuno dall'alto giunga a risolvere i nostri problemi, perché non avverrà mai. Lo provano il caso dell'Ilva di Taranto, della Marlane di Praia, quello che sta accadendo oggi nelle scuole, la repressione che colpisce gli studenti, ma anche questi casi di lavoro nero, addirittura di un sindacato. Non c'è altro da dire, se non che ci riascolterete il prossimo venerdì. Grazie per aver ascoltato la prima puntata di Indie Radio, di questo programma di informazione indipendente che potete ascoltare solo su Radio Transizione di Fase. Intanto vi invito a contattarci facendo sempre riferimento al nostro sito, che è www.calabria.indimedia.org. E quindi non ci resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo venerdì. Grazie per l'ascolto, se ci siete riusciti ad ascoltarci fino alla fine è una grande conquista per l'umanità, e arrivederci alla prossima. Questa qua si chiama Ne pulimo di voi, che significa ne vogliamo di voi. L'abbiamo cantata oggi nel corteo, che in pratica è dedicata ai disoccupati che a un certo punto della loro vita si devono impegnare, andare sotto il comune e incendiarlo. Chiaramente non lo prendetela così, tra virgolette, sta cosa, magari c'è qualche poliziotto nascosto da dentro l'albero che sta fotografando. Vabbè, mi assumo la responsabilità, se volete, dopo il concerto. Ciao, Ananas, quando vuoi? DJ Brusca, ai controlli. A Salvatore De Rosa e a Claudio. Sì. capatia capatia in denuncia atena da nova di da buen abadia capadonna do tre piso contate da madonna do tre piso sto vicino da matanea sanità la scritta non su quei paia allora tua comincia a passà capoce capo una rapa papa pina gomba non noia così gabe capoce capoce arapino sei un guaiato sino sei un guaiato da te. E se pensiamo una cucchiamo tutti insieme, co creiamo nazione, so problema da disoccupazione. Quando si faceva 4, si faceva 5,000, a passagamo comune, e poco prima, ce li essa a fatia, ne volima da buia, ne volima da buia, ne volima da buia, ne volima da buia, ne volima da buia, ne volima da buia, ne volima da buia, ne volima da buia. Hanno spinto una vaccina 50 milioni di euro, faccio sotto cazzo da cartel, però c'è partita buena, guagliù, è sempre la stessa bandiera, mo, ma gli è che qualcuno te la bandiera, perché ha fatica a sta guagliuna, l'importante che a tarda non essere, la cessa si sente una signora, e guagliù, tutti insieme a Magancià, si vuole che costruiamo qualche cosa in Calabria, gamba, siamo una campanana, siamo una parigiana, siamo una ragionanda, e che vedete come che fai, in un futuro non posso fare, non ci posso fare lo figo, perché c'è la gamba. Sarà tutto quanto che sono delle fre, non sarà di bello, Berlusconi o D'Alema. Accogliamone tutti insieme, diamo gamba su un sistema. C'è la mascella, c'è una voce, c'è la mascella, non c'è una scena. L'importante che Roma libera culo viene in terra. Ce ne accogliamo tutto quanto a noi, a voi non fa, pensiamo proprio. Ne volima da buia, ne volima da buia, ne volima da buia. La volima da buia, la volima da buia, la volima da buia, la volima da buia, io sono qua DJ. Grazie. Grazie alle compagne e ai compagni che stanno lavorando nel bar, non ci dimentichiamo nessuno.